Temo che il segreto che mi serra la gola sia oramai una favola notturna e che il pianto che mi riga la faccia lo allontanerà. Shava, Shava, non resterà. Dicono che un sasso diventi un rubino nel dolore dell'attesa. Mi sa che sì, lo diventa, ma col sangue del mio ventre lo diventerà. Shavad, non resterà. Per l'alchimia del tuo amore, il mio viso risplendeva di gioia come un sole, e per la tua grazia anche la terra nera d'oro diventerà. Shavad, non resterà. Istupidito dall'arroganza del rivale, correrò al tempio del vino reclamando giustizia e magari mi libererò dalle mani del dolore laggiù. Shavad, non resterà. Anima, racconta la nostra storia, ma senza che la brezza notturna ti senta. E trattieni il respiro perché il muschio dei capelli che è nelle tue mani. La brezza altrimenti lo scompiglierà. Altrimenti la brezza lo scompiglierà. Shavad, non resterà. Finalmente una buona notizia! Non dureranno i giorni d'angoscia! Non resistono questi più dei giorni di gioia! Shavad, no, non resterà. Temo che il segreto che mi serra la gola sia ormai una favola notturna e che il pianto che mi riga la faccia lo allontanerà. Shavad, no, non resterà. Io mi sono distrutto a sguardare il ragazzo, ma neppure il rivale resisterà. Sta scritto a lettere d'oro. Solo la grazia resisterà. Shavad, non resterà. Hafez, non perdere la speranza dell'affetto del ragazzo. Crudeltà e violenza non resisteranno. Io mi sono distrutto a sguardare il ragazzo, ma neppure il rivale resisterà. Sta scritto a lettere d'oro. Solo la grazia resisterà. Shavad, non resterà. Oh, falena, fai all'amore con la candela, perché all'alba si spegnerà. Shavad, non resterà. Oh, falena, fai all'amore con la candela, perché all'alba si spegnerà. Shavad, non resterà. Mi hai offerto il vino rosso e mi si è rivoltata, sfiaccata la scienza. Si rivoltò svanito l'intelletto. Ripulisci per Dio quelle labbra che colano vino, dissi al mio animo sedotto da mille indicibili peccati. Mi ha parlato ieri sera la voce segreta della casa del vino. Ascolta, resta lì. Resta fermo nella stazione dell'attesa. E non fuggire dal tuo destino. Ripulisci per Dio quelle labbra che colano vino, dissi al mio animo sedotto da mille indicibili peccati. Resta fermo nella stazione dell'attesa. Povero e sfiancato, sono giunto alla tua soglia per chiedere la grazia, perché per me non esiste altro palazzo di gioia che il tuo affetto. Povero e sfiancato, sono giunto alla tua soglia per chiedere la grazia, perché per me non esiste altro palazzo di gioia che il tuo affetto. Resta fermo nella stazione dell'attesa. dissi al mio animo sedotto da mille indicibili peccati. Sfiaccato dalle mille tuniche della pietà e dal saio nero della remissione, atterrito, porterò con me sottoterra l'immagine del tuo neo. Anzi, col nero del tuo neo, profumato d'ambra, voglio sia fatto il mio rettangolo privato.